Ma se Charlot si estasiava di fronte alla prospettiva d'uno scontro che all'inizio aveva creduto fittizio, Morel pensava con terrore ai pettegolezzi che dalla banda del reggimento potevano propagarsi, grazie al chiasso che ci sarebbe stato attorno a quel duello, sino al tempio di Rubergère. Immaginando già l'intero corso al corrente di tutto, diventava via via più insistente con Charlot, il quale continuava a gesticolare inebriato dall'idea di battersi. Morel supplicò il barone che gli consentisse di non lasciarlo nei due giorni successivi, sino a quello fissato per il supposto duello, in modo da sorvegliarlo a vista e cercare di fargli intendere la voce della ragione. Una proposta così tenera trionfò delle ultime esitazioni di Charlot. Disse che avrebbe tentato di trovare una scappatoia che avrebbe fatto rinviare a due giorni dopo una risoluzione definitiva. In questo modo, non sistemando subito la faccenda, Charlot sapeva di poter avere Charlie con sé almeno per due giorni e approfittarne per ottenere da lui impegni per il futuro in cambio della sua rinuncia al duello, esercizio, diceva, che l'affascinava di per sé e di cui non si sarebbe privato senza rimpianto. E in questo, d'altronde, era sincero, perché aveva sempre trovato piacere nello scendere sul terreno quando si trattava di incrociare il ferro o di scambiarsi pallottole con un avversario. Cotard, finalmente, arrivò, sebbene in gran ritardo, giacché, felice ma soprattutto emozionato di fungere da padrino, era stato costretto a fermarsi a tutti i caffè o cascinali lungo la strada, chiedendo che gli indicassero per favore il numero 100 o quel posticino. Non appena lo vide, il barone lo condusse in un locale isolato, perché trovava più regolamentare che Charlie e io non assistessimo al colloquio, ed era insuperabile nell'assegnare a una stanza qualsiasi il ruolo provvisorio di sala del trono o delle deliberazioni. Rimasto solo con Cotard, lo ringraziò calorosamente, ma lo informò, come fosse probabile, che il discorso riferito gli non fosse mai stato realmente pronunciato, e lo pregò di voler avvertire il secondo padrino che in tali condizioni, e salvo complicazioni possibili, l'incidente era da considerarsi chiuso. Ora che il pericolo si allontanava, Cotard ne fu deluso. Per un istante pensò addirittura di mostrarsi seccato, ma ricordò che uno dei suoi maestri, protagonista della più bella carriera medica del suo tempo, essendo stato respinto la prima volta all'Académie per due soli voti, aveva fatto buon viso a cattivo gioco ed era andato a stringere la mano al concorrente eletto. Il dottore si dispensò dunque da un'espressione di stizza che ormai non avrebbe cambiato le cose, e dopo aver mormorato, lui il più pauroso degli uomini, che ci sono cose sulle quali non si può chiudere un occhio, aggiunse che era meglio così, che era lieto di questa soluzione. Charlot, desideroso di manifestare la sua riconoscenza al dottore, così come il duca suo fratello avrebbe sistemato il bavero del cappotto a mio padre, o più ancora come una duchessa avrebbe preso per la vita una plebea, portò la sua sedia vicinissima a quella del dottore, malgrado il disgusto che questi gli ispirava. E non solo senza piacere fisico, ma vincendo una repulsione fisica, da Guermantes, non da invertito, per salutare il dottore gli prese la mano e gliela accarezzò un istante, con la bontà d'un padrone che fa una carezza sul muso al suo cavallo e gli dà un po' di zucchero. Ma Cotard, che non aveva mai fatto capire al barone d'essere sia pur vagamente al corrente delle dicerie sui suoi costumi, ma non per questo lo considerava meno dentro di sé come appartenente alla categoria degli anormali, e anzi, con la sua abituale improprietà di linguaggio in tono serissimo, parlando di un cameriere di Madame Verdurin, chiedeva: «Non è l'amica del barone?» Personaggi dei quali aveva poca esperienza, immaginò che quella carezza sulla mano fosse l'immediato preludio d'uno stupro, in vista del quale egli fosse stato attirato col pretesto del duello in un agguato e condotto dal barone in quel salotto solitario dove stava per essere violentato. Non osando lasciare la sua sedia, cui era inchiodato dalla paura, roteava due occhi terrorizzati come chi, caduto nelle mani di un selvaggio, sia tutt'altro che sicuro che non si nutra di carne umana. Finalmente, Charlot, lasciandogli la mano e deciso ad essere gentile fino in fondo, prenderete qualcosa con noi, come si dice quel che si chiamava una volta un Mazagran o una Gloria, bevande che ormai si trovano soltanto come curiosità archeologiche nelle commedie di La Biche e nei caffè di Doncières. Un Gloria sarebbe abbastanza adatto al luogo, non è vero? E alle circostanze. Cosa ne dite? Sono presidente della Lega Antialcolica, rispose Cottard. Basterebbe che passasse qualche medicastro di provincia e subito si direbbe che predico bene e razzolo male. Os homini sublime dedit celumque tueri, aggiunse, sebbene non c'entrasse per niente. Ma il suo stock di citazioni latine era piuttosto povero, pur se sufficiente a meravigliare i suoi allievi. Charlot alzò le spalle e riportò Cottard da noi, dopo avergli raccomandato una segretezza che gli stava tanto più a cuore in quanto il motivo del duello abortito, essendo affatto immaginario, bisognava impedire che giungesse all'orecchio dell'ufficiale arbitrariamente coinvolto. Mentre stavamo bevendo tutti e quattro, Madame Cottard, che aspettava il marito fuori, davanti alla porta, e che Charlot aveva vista benissimo, ma non si curava di invitare, entrò e salutò il barone, che le tese la mano come a una cameriera, senza muoversi dalla sedia, un po' da sovrano cui si rende omaggio, un po' da snob che non vuole una donna poco elegante alla sua tavola, un po' da egoista che ha piacere d'essere solo con gli amici e non vuole essere infastidito. Madame Cottard rimase dunque in piedi a parlare con Charlot e col marito. Ma, forse perché la cortesia, quel che si deve fare, non è privilegio esclusivo dei Guermantes e può d'un tratto illuminare e guidare i cervelli più malcerti, o perché, tradendo abbondantemente sua moglie, Cottard provava ogni tanto per una sorta di compensazione il bisogno di proteggerla contro chi le mancasse di rispetto, bruscamente il dottore aggrottò le sopracciglia, cosa che non gli avevo mai visto fare, e senza consultare il signor di Charlot, da padrone, «Via, Leontine, non startene in piedi, mettiti a sedere». «Ma non vi disturbo?» chiese timidamente Madame Cottard al signor di Charlot, il quale, sorpreso dal tono del dottore, non aveva replicato. E senza dargliene, questa seconda volta, il tempo, Cottard ribadì con autorità «Ti ho detto di sederti». Subito dopo il gruppo si sciolse e a questo punto Charlot disse a Morel: «Da tutta questa storia, finita meglio di quanto non meritaste, concludo che non vi sapete comportare e che, assolti i vostri obblighi militari, vi riporterò personalmente da vostro padre, come fece l'arcangelo Raffaele inviato da Dio al giovane Tobia». E il barone sorrise con un'espressione di grandezza, con una gioia che Morel, cui la prospettiva d'essere riportato indietro in quel modo piaceva pochissimo, sembrava non condividere. Nell'ebbrezza di paragonare se stesso all'arcangelo e Morel al figlio di Tobit, Charlot non pensava più allo scopo della sua frase, che era quello di tastare il terreno per sapere se Morel avrebbe acconsentito, come lui desiderava, a ritornare insieme a Parigi. Ubriaco d'amore o d'amor proprio, il barone non vide o finse di non vedere la smorfia del violinista, giacché, lasciato solo il giovane nel caffè, mi disse con un sorriso orgoglioso: «Avete notato quando l'ho paragonato al figlio di Tobit come scoppiava di gioia? Intelligente com'è, ha capito subito che il padre accanto al quale ormai sarebbe vissuto non era il padre secondo la carne, che deve essere un orribile cameriere con i baffi, ma il suo padre spirituale, cioè io. Che orgoglio per lui! Con quanta fierezza ha rialzato la testa! Com'era felice d'aver capito! Sono certo che ripeterà ogni giorno: «Oh Dio, voi che avete dato il beato arcangelo Raffaele come guida al vostro servitore Tobia in un lungo viaggio, concedete a noi, vostri servitori, d'essere sempre protetti da lui e muniti del suo soccorso». «Non ho nemmeno avuto bisogno di dirgli», aggiunse il barone, il quale non dubitava affatto di assidersi un giorno dinanzi al trono di Dio, che ero io, l'inviato celeste. L'ha capito da solo ed è ammutolito dalla felicità. E signor di Charlus, cui al contrario la felicità non toglieva la parola, senza curarsi dei pochi passanti che si voltarono, convinti d'aver a che fare con un pazzo, esclamò tutto solo e con tutta la sua forza, alzando le mani, «Alleluia!». Questa riconciliazione non mise se non temporaneamente fine ai tormenti di Charlus. Spesso, partito per le manovre verso luoghi troppo lontani perché Charlus potesse raggiungerlo o mandare me a parlargli, Morel scriveva al barone lettere disperate e tenere in cui gli assicurava che voleva farla finita con la vita perché aveva bisogno, per qualche orribile faccenda, di 25.000 franchi. Non diceva quale fosse l'orribile faccenda. Se l'avesse detto, l'avrebbe di certo inventata. Quanto al denaro, Charlus l'avrebbe mandato volentieri se non avesse intuito che in quel modo Charlie avrebbe avuto i mezzi per fare a meno di lui e anche per ottenere i favori di qualcun altro. Così rifiutava, e i suoi telegrammi avevano il tono secco e tagliente della sua voce. Quando era sicuro del loro effetto, si augurava che la rottura con Morel fosse definitiva, giacché, persuaso che sarebbe avvenuto il contrario, si rendeva conto di tutti gli inconvenienti che sarebbero rinati da quel legame inevitabile. Ma se da Morel non arrivava nessuna risposta, non dormiva più. Non aveva più un momento di calma. Tanto grande è, in effetti, il numero delle cose che viviamo senza conoscerle e delle realtà interiori e profonde che ci rimangono nascoste. Faceva allora ogni supposizione possibile sulla mostruosità per cui Morel poteva aver bisogno di 25.000 franchi. Le dava tutte le forme, le attribuiva via via molti nomi propri. Credo che in quei momenti Charlus, e benché allora il suo snobismo in fase calante fosse già stato raggiunto, se non superato, dalla crescente curiosità che il barone provava per il popolo, dovesse ricordare con qualche nostalgia i graziosi, variopinti mulinelli delle riunioni mondane, dove le donne e gli uomini più affascinanti lo cercavano solo per il piacere disinteressato che egli donava loro, dove nessuno si sarebbe mai sognato di dargli una stoccata, di inventare una faccenda orribile per cui si è pronti a darsi la morte se non si ricevono subito 25.000 franchi. Credo che allora, e forse perché nonostante tutto era rimasto di Combray più di quanto non lo fossi io e aveva innestato la fierezza feudale sull'orgoglio tedesco, dovesse pensare che non si può essere impunemente l'amante del cuore di un domestico, che il popolo non ha molto a che vedere col bel mondo. Insomma, Charlus non confidava nel popolo come ho sempre fatto io.